2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'8 novembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, scritto in cifra, è radio24.it. Anche questa puntata, come sempre vi ricordo, è disponibile sul nostro sito internet, lo sarà dalla prossima settimana, e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Il podcast è un nuovo modo per ascoltare la radio, per erogare contenuti radiofonici, molto divertente, molto utile per riascoltare quando volete, soprattutto con lo strumento che desiderate, anche 2024. Tutte le informazioni sono online, oppure inviateci una email e vi guideremo per abbonarvi gratuitamente al nostro servizio e scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Chi ha mai pensato che con la diffusione dei programmi televisivi digitali fosse più difficile, in alcuni casi addirittura impossibile, videoregistrare? Questo è un rischio al quale potremmo andare incontro nel futuro. Di questo, anche di questo parleremo in questa puntata di 2024. Parleremo anche di web television con la voce di un'azienda giovane italiana che propone proprio questo servizio, la possibilità di creare online la propria web television, un vero e proprio canale televisivo. La notizia più importante della settimana riguarda la rottura dell'alleanza tra Google e Yahoo per la vendita e distribuzione di pubblicità sui motori di ricerca. In pratica Google, ricorderete, vendeva posizioni pubblicitarie sul motore di Yahoo, a vantaggio naturalmente di entrambi, una mossa che era arrivata nel mezzo del tentativo di Microsoft di acquistare Yahoo. Ora vedremo cosa succederà e quali eventuali altre alleanze nasceranno nelle prossime settimane. Quattro dirigenti di Google, e siamo però in Italia, Google in Italia, saranno processati il 3 febbraio per concorso in diffamazione e violazione della privacy in relazione ad un filmato caricato su Google Video 2 anni fa, in cui un ragazzo disabile era insultato da 4 compagni di scuola in un istituto tecnico torinese. Il caso è ampiamente dibattuto in rete perché, come del resto sottolinea Google, il rinvio a giudizio dei 4 dipendenti del motore di ricerca rischia di creare un precedente preoccupante. In generale sono molti gli esperti della rete che si dicono preoccupati perché si giudica con mentalità e leggi vecchie un fenomeno che ha radicalmente cambiato l'ecosistema delle comunicazioni. Una delle posizioni più diffuse è che la rete, e quindi il trasporto dei dati, debba rimanere indipendente rispetto ai contenuti. Di questo parleremo anche nelle prossime puntate, un tema estremamente delicato e che potrebbe cambiare anche il modo con cui in futuro utilizzeremo soprattutto le piattaforme che gestiscono e pubblicano i contenuti realizzati e creati dagli utenti, come ad esempio YouTube, tanto per fare un esempio. Dicevo la scorsa settimana che molto probabilmente in futuro pagheremo l'abuso di banda larga, chiamiamolo così, abuso che oggi alcuni utenti fanno scaricando per molte ore al giorno film e musica, al di là dei problemi legati all'eventuale download di contenuti protetti dal diritto d'autore, quindi il download illegale. C'è anche il problema della saturazione della banda larga. Secondo l'americana AT&T, l'1% degli utenti sarebbe responsabile del 20% del traffico, il 5% degli utenti sarebbe responsabile del 40% del traffico. Quindi per colpa di pochi cattivi, chiamiamoli così, pagheremo tutti. AT&T sta infatti sperimentando un diverso modello di tariffazione, non più flat, cioè paghi tot e fai quello che vuoi, ma paghi un tot e fai quello che vuoi fino ad un certo limite di traffico, superato il quale scatta una tariffazione a consumo. Una notizia che riguarda Linux: il Ministero degli Esteri tedesco passerà al sistema operativo open source nelle oltre 200 sedi del mondo, con una rete che collega oltre 11.000 computer. Per il mondo open source, da segnalare la diffusione di Firefox, il programma di navigazione su internet della Mozilla Foundation, che ha raggiunto recentemente quota 20% sul mercato, mentre Internet Explorer copre, rimane ancora largamente il più diffuso e copre il 71% dei computer. A proposito di software open source e del software libero, vi cito una frase che ha scritto recentemente sul Boston Review Richard Stallman, che è padre spirituale del movimento del software libero e creatore della Free Software Foundation, insomma un'autorità in campo anche nel mondo web in generale. Scrive Stallman che Insegnare ai bambini ad usare Windows è come insegnare loro a fumare in un mondo dove solo un'azienda vende il tabacco. Come ogni droga, dà dipendenza ed è una dipendenza dannosa. Stallman segnala che era stato lo stesso Bill Gates ad usare questo paragone in un numero del 1998 di Fortune Magazine. Parole di Richard Stallman, le trovate in rete digitando e cercando questo nome. Ora, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, parliamo di videoregistrazione, anche di videoregistrazione, partendo però da un dato interessante, cioè l'abbassamento del prezzo dei Blu-ray player, dei lettori per dischi Blu-ray. Quindi parliamo di alta definizione, chiamiamoli i nuovi DVD. Il nostro esperto di audio e video digitale è Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ho detto che alcuni li chiamano i DVD in alta definizione, i nuovi DVD. In realtà stiamo parlando di una nuova tecnologia, ovvero i Blu-ray player, cioè i lettori di dischi in tecnologia Blu-ray, e quindi stiamo parlando di alta definizione. Sì. Possiamo anche noi chiamarli DVD in alta definizione? O è sbagliato? Non è terribilmente sbagliato, insomma, lo standard è Blu-ray, che il fatto che venga letto da un laser a una frequenza diversa, con quindi una quantità di dati maggiore perché l'incisione sul disco è più fitta, sono fatti tecnici, non importa. Il disco è esteticamente identico a un DVD, soltanto che è in una confezione blu, quindi si può riconoscere nei negozi per questo motivo. La capienza è decisamente superiore, arriva fino a 50 GB invece dei 9 GB del DVD. Questo permette a questi dischi di contenere del video in alta definizione, quindi in risoluzione Full HD 1920x1080 invece che PAL, quindi diciamo 5-6 volte superiore alla standard definition, che è ideale per essere vista sui TV in alta definizione, che sono oramai la stragrande maggioranza, direi la totalità dei TV in vendita, non ancora la totalità dei TV installati nelle case degli italiani, ma oramai la totalità dei TV in vendita sono in alta definizione. La differenza all'occhio si vede, e come, pur a patto di avere ovviamente un TV in alta definizione. A proposito di TV e di sostituzione dei vecchi TV con quelli nuovi, quanto tempo ci vuole in Italia per sostituire tutto il parco di TV, così a spanne? 2-3 anni o anche 10? Dipende dalla volontà degli utenti meno, come dire, propensi all'innovazione tecnologica a cambiare questi TV. Diciamo che se tutta la sostituzione fosse dei vecchi apparecchi, basterebbero fondamentalmente 4-5 anni. Il problema è che invece in questi 4-5 anni probabilmente qualcuno cambierà già di TV in alta definizione con dei nuovi modelli, magari più grandi, e in molti magari continueranno a tenere il vecchio tubo catodico, fino a che le trasmissioni televisive non diventeranno tutte o quasi tutte in alta definizione. Va detto che l'alta definizione ha molto significato sul TV principale di casa, quindi sul grande schermo. Ovviamente non ha molto senso, per esempio, sui TV piccoli della cucina, della camera da letto, sui 20 pollici, sui quali non si può apprezzare la qualità dell'alta definizione se non da distanze di visione molto ravvicinate. Sul numero di novembre di AF Digitale voi avete fatto una prova di 10 player, quindi di 10 lettori che assomigliano appunto ai lettori DVD, ma leggono anche i Blu-ray. Dici bene anche, perché non solo assomigliano ai lettori DVD, sono a tutti gli effetti dei lettori DVD e dei lettori CD. Leggono anche i Blu-ray disc. Perfetto. Avevate fatto una prova analoga ad aprile, quindi in primavera. Allora, alcune cose sono cambiate drasticamente. La prima cosa, che per gli italiani è molto importante, il prezzo. Sì, il prezzo. Il prezzo ad aprile era ancora, anche se aveva già subito delle forti discese dal momento del lancio, direi a fine dell'anno scorso, quindi circa un anno fa, era ancora un po' alto. I prezzi attualmente si sono praticamente dimezzati, tanto che incomincia a essere veramente il momento anche per il grande pubblico di acquistare un player Blu-ray, perché l'entry level è in questo momento intorno ai 199 euro, e forse sotto Natale si troverà anche qualche offerta leggermente più conveniente, e i prodotti già di buona qualità sono già intorno ai 249-299 euro. I prezzi solo 6 mesi fa erano praticamente doppi. Tra poco noi parleremo anche di una delle attività che forse nelle case di molti italiani si fanno con maggiore frequenza quando si parla di TV, cioè la registrazione. Molti videoregistrano tranquillamente i programmi. Con l'arrivo del digitale cominceranno ad esserci molti problemi. Questo è un po' anche una vergogna, potremmo dire, ma ne parliamo tra poco, perché alcuni italiani si accorgeranno che le proprie abitudini non potranno essere ripetute nel futuro. Prima volevo parlare brevemente della tecnologia. Funziona tutto bene? Diciamo, oltre al prezzo è migliorato qualcos'altro oppure no? Sì, il prezzo è migliorato, ma essendo stati praticamente cambiati tutti i modelli da aprile a oggi, questi 10 modelli sono tutti nuovi, non li avevamo mai provati prima, sono cambiate anche le prestazioni. E sono cambiate meglio, ovviamente. Uno dei punti deboli dei lettori Blu-ray fino a qualche mese fa erano i tempi di caricamento del disco, non tanto del disco DVD quanto del disco Blu-ray. In alcuni casi, alcuni oramai vecchi lettori impiegavano 2 minuti e mezzo, 3 minuti per caricare i dischi più problematici, quelli più, diciamo, più carichi di dati, il che era un problema, perché in alcuni casi l'utente non preparato a questi tempi inseriva il disco nel lettore, schiacciava play e dopo un minuto di niente si preoccupava, staccava tutto e poi tornava in negozio dicendo è guasto. Invece non era guasto, era un funzionamento normale, anche se, diciamo, un po' fuori dai limiti dell'accettabilità. Ecco, i tempi sono molto migliorati, diciamo che i tempi di caricamento, i tempi medi su tutto il panel dei lettori provati, che sono praticamente tutti quelli in commercio, si è dimezzato rispetto a 6 mesi fa, e alcuni lettori hanno praticamente eguagliato o in alcuni casi leggermente migliorato i tempi della macchina che era campionessa di velocità da questo punto di vista, che è la PlayStation 3. Ricordiamo che la PlayStation 3, oltre a essere una console videogame, oltre a essere una macchina in grado di essere un aggregatore di contenuti locali e sulla rete, audio, video e di altro tipo, è anche un lettore di Blu-ray disc, cioè la meccanica della PlayStation 3 è una meccanica Blu-ray ed è la macchina in grado di leggere Blu-ray disc. Data la potenza di questa macchina, questa ad aprile era nettamente la più veloce. Oggi non è più così, nel senso che ci sono dei lettori che sono in condizione di eguagliare o in alcuni casi migliorare questi tempi. Voi, Gianfranco, avete provato in laboratorio 10 prodotti, naturalmente oggi non ci dilunghiamo in giudizi, tabelle che poi gli ascoltatori possono seguire e leggere su AF Digitale, dico solo che le marche provate sono 8, i prodotti sono 10, Funai, LG, 2 Panasonic, 1 Philips, Pioneer, Samsung, Sharp e 2 Sony. Prodotti sicuramente molto interessanti, non solo per gli appassionati, ma anche, insomma, per chi ha una nuova TV, sicuramente un'accoppiata molto interessante. Stiamo parlando di lettori Blu-ray per l'alta definizione con Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale. Dunque, Gianfranco, questi sono, se ben capisco, lettori e solo lettori, quindi non registrano. No, queste sono macchine che non registrano, come all'inizio del DVD, c'erano solo i DVD player e non i DVD recorder che abbiamo oggi. Non registrano per un motivo tecnologico? No, perché in Giappone, per esempio, patria di buona parte di queste macchine, il Blu-ray disc player praticamente non esiste, esistono soltanto i recorder. E i dischi, i film, come siamo abituati ad averli noi su DVD, anzi su Blu-ray disc, praticamente sono molto pochi, si vendono molto poco. Per loro è fondamentalmente una macchina per videoregistrare dalla TV. Sì, dai programmi televisivi in alta definizione, che sono molto diffusi in Giappone. E da noi così non è. La sola macchina che registra Blu-ray disc, quindi un videoregistratore oltre che player, ovviamente, Blu-ray disc, è una macchina di Panasonic che è stata introdotta in questi mesi solo in Francia. Perché? Perché la Francia è la nazione che ha una quantità di trasmissioni regolari, cioè di emittenti regolari in alta definizione su digitale terrestre, tale da giustificare la possibilità di videoregistrare in alta definizione. Cioè, un Blu-ray Disc Recorder rispetto a un DVD Recorder offre un servizio in più, la possibilità di registrare in alta definizione. Devo avere prima dei programmi in alta definizione, certo, per poterli registrare. In Francia già ci sono. Qualcuno potrebbe farci notare, ma come, anche in Italia già ci sono. Ci sono 5-6 canali di Sky che probabilmente entro fine anno aumenteranno anche di numero, e la Rai sta già facendo le sue sperimentazioni, abbiamo visto i primi programmi, e promette che entro la primavera del 2009 partiranno le trasmissioni regolari. In digitale terrestre. In digitale terrestre la Rai e su satellite Sky. Assolutamente vero, corretto, però Sky non consente la videoregistrabilità dei propri contenuti verso l'esterno. Quindi se io collego un videoregistratore Blu-ray a valle di un decoder Sky HD, non posso registrare perché c'è un protocollo di protezione opportuna e Sky non permette la videoregistrazione. La Rai, per il momento, nelle sue sperimentazioni, permette la videoregistrazione, anche se l'emittente di Stato ha fatto sapere, in un'intervista che avevamo fatto a un suo eminente rappresentante, che la possibilità di mettere la protezione ai contenuti è allo studio, perché su alcuni contenuti non si vorrà renderli videoregistrabili, magari anche non per cattiva volontà dell'emittente, ma per specifiche volontà dei detentori dei diritti, che magari quel film non vuole farlo videoregistrare. Sì, noi oggi quindi siamo abituati a vedere programmi televisivi che possono essere videoregistrati con un videoregistratore VHS, vecchia maniera, oppure anche con un DVD recorder. Assolutamente. Giusto? Benissimo. Dobbiamo purtroppo abituarci, speriamo che le cose cambino, ma mi sembra di capire da quello che dice Gianfranco Giardina che le cose forse cambieranno in peggio. Dobbiamo abituarci ad un'era digitale dove i programmi non saranno videoregistrabili. Dico bene? O comunque questa è una non tendenza. Saranno così liberamente videoregistrabili. Per esempio, prima che qualcuno da Sky ci chiami immediatamente lamentandosi, le trasmissioni di Sky si possono videoregistrare pagando, avendo il ricevitore MySky, il cosiddetto MySky, che registra sull'hard disk interno, per una macchina ovviamente proprietaria, chiusa, non posso sceglierne un'altra, è quella, sì. Registro su hard disk e di fatto non posso conservare per tutta la vita, a un certo punto dovrò liberare l'hard disk da quei contenuti, che voglio dire è anche una soluzione accettabile per certi versi. Il problema è che io vorrei avere una macchina che mi videoregistra oggi da Sky, domani dalla Rai, dopodomani da Mediaset, visto che per esempio la Rai in alta definizione promette al momento di trasmettere solo su digitale terrestre, quindi non ce l'avrò sul ricevitore di Sky, quindi il ricevitore MySky non potrà mai registrare le trasmissioni che da questa primavera Rai comincerà a fare in alta definizione. Quindi cosa devo fare? Comprare un'altra macchina che videoregistra per registrare soltanto la Rai, e poi magari succede che Mediaset avrà bisogno invece di una sua macchina anch'essa per videoregistrare l'alta definizione. L'industria, gli emittenti, i distributori, tutti devono capire che la gente non vuole più avere altre scatole tra le scatole, diciamo, che fanno le scatole in casa, altri box interattivi, non interattivi. Il successo della CAM, quindi di questo lettore di scheda che si può inserire nel pannello posteriore di alcuni TV e che evita di avere il box interattivo per l'acquisto degli eventi in pay per view sul digitale terrestre, sta avendo un successo incredibile, al di là della promozione che non è stata fatta, proprio perché elimina un box, che vuol dire eliminare una scatola, uno spazio, una presa occupata di corrente, un telecomando in più, un consumo di corrente in più, il calore che si dissipa, un cavo, cioè tante semplificazioni. Se si potesse avere un box in meno, tutti sarebbero ovviamente più contenti. Un videoregistratore per ogni emittente è fuori dal tempo, e ancora non ci sono le condizioni di diffusione della banda larga, di capacità della banda larga per avere un servizio capillare per cui la videoregistrazione non viene fatta in casa ma viene virtualizzata su un'unità di rete remota gestita per esempio dal gestore, un po' come fanno alcuni gestori di IPTV. Quindi insomma mi sembra di capire che dobbiamo dimenticarci la nostra libertà di videoregistrare tutto quello che vogliamo e soprattutto rivederlo quando vogliamo. Beh, le trasmissioni digitali offrono molte, molte possibilità in più, molte versatilità in più, ma pongono anche l'emittente in condizione di porre dei limiti più semplici per l'emittente, ma ovviamente più complicati per l'utente. Sì. E quindi magari saremo in condizione di non capire oggettivamente perché la trasmissione A l'abbiamo registrata e ha funzionato tutto e la trasmissione B no, perché magari sulla trasmissione B è stato acceso come dire, il bit che vieta la registrazione e il videoregistratore ci dirà programma non registrabile. Magari noi punteremo il nostro videoregistratore per cercare di registrare, convinti di aver registrato la trasmissione, scopriremo che invece il detentore dei diritti, a norma di legge, perché la legge dà al detentore dei diritti questo diritto, anche qui scusate il gioco di parole, ha vietato la copiabilità o la registrabilità di quel contenuto. A quel punto ovviamente l'utente non potrà fare nulla. Sì. Si paga la tassa SIAE per la copia privata anche su questi strumenti? Non è una tassa, sì. È un compenso, lo dico perché se no poi ci bacchettano, sì, è sì. Un compenso SIAE, alcuni la chiamano tassa proprio per l'effetto pratico, no? che comunque ha, perché viene pagata un po' anche a prescindere da quello che si fa, e quindi diventa di fatto una tassa, ma è un compenso per copia privata che viene pagato sia sui supporti vergini che sull'hardware capace di registrare. È in discussione addirittura la possibilità di estendere il compenso SIAE anche ad altri strumenti digitali che possono potenzialmente contenere dell'audio e del video, e parlo segnatamente di memorie flash rimovibili o no, quindi anche quelle che mettiamo per esempio nella fotocamera digitale che nulla hanno a che vedere con audio e video registrato, hard disk, computer. Da tempo si parla di tariffare da questo punto di vista anche le connessioni a internet, per chi ovviamente sì, fa sì. Lo streaming e quindi si collega, ascolta della musica in streaming, e a quel punto dovrebbe sì, verrebbe da domandarsi perché dovrei pagare questo compenso su un futuro video recorder in tecnologia Blu-ray se poi molti programmi non saranno videoregistrabili. Chiudiamo la parentesi. C'è un motivo? Sì, e ce n'è uno solo e si chiama Lo dice la legge. Dopo che questa legge sia sensata oppure no, possiamo stare a discutere moltissimo. La legge dice che il compenso va pagato perché c'è questo diritto di copia, che però il diritto di copia può essere in qualche modo revocato da dei sistemi di protezione anticopia che non possono essere rimossi. Quindi se qualcuno riuscisse a rimuovere legalmente, cioè o meglio a copiare il contenuto senza rimuovere la protezione, ma ci vuole Mandrake o Silvan, insomma sì. Nessun altro può farlo, ecco, allora potrebbe copiare liberamente, ma siccome non si può copiare senza rimuovere la protezione anticopia se viene applicata, e la protezione anticopia non può essere rimossa a norma di legge, e quindi si paga il compenso ma non si può copiare. Sì, ti voglio fare un'ultima domanda a sostegno di quei consumatori, mi sembra di capire che in America c'è anche addirittura un movimento vero e proprio per la libera registrazione, per la libera videoregistrazione. La domanda è, hanno senso i timori delle major nei confronti del pubblico che potrebbe poi distribuire queste copie? Ma secondo me no, per due ordini di motivi. Il primo motivo è che quando i contenuti arrivano sulle emittenti televisive, diciamo, registrabili, quindi non sono né in pay-per-view e non sono ovviamente in DVD o in Blu-ray, sono contenuti che sono già stati largamente sfruttati in tutti gli altri canali, quindi sono già stati al cinema, sono già stati a noleggio, sono già stati in DVD, sono già stati in Blu-ray, sono già stati in pay-per-view e quindi poi arrivano nella TV gratuita, free o comunque sui canali, diciamo, che fanno parte anche del pacchetto dei gestori satellitari. Quindi non sei più un contenuto d'appeal delle bancarelle dei pirati. Io sulle bancarelle dei pirati, quando sbircio qualche cosa nei mercatini o nelle piazze, trovo le cose nuove, certo. Le cose che sono al cinema e non sono neanche in Blu-ray. Quindi è un contenuto che non ha più appeal per quel tipo di mercato. E poi va detto un'altra cosa, sarebbe molto più giustificato il timore da parte del mondo della musica, della discografia, e questo perché un disco, quindi un brano musicale, si ascolta ripetutamente, tante volte, anche più volte al giorno, per tanti anni, quindi insomma resta un contenuto vivo e valido per più tempo. Un film o una trasmissione televisiva, peggio ancora, viene guardata una volta e quindi normalmente dai videoregistratori d'Italia viene cancellata. Si usa il videoregistratore fondamentalmente per l'operazione che viene chiamata all'inglese time shifting, o comunque per spostarla nel tempo. Io alle 18 del venerdì non posso vedere la trasmissione che mi interessa, la guardo alle 22 del sabato, se l'ho videoregistrata, dopodiché la cancello. Questo è il comportamento normale. Quindi non c'è nessun timore nei confronti della ridistribuibilità di questi contenuti. Fermo restando che i pirati, quelli veri, sanno benissimo come aggirare le protezioni anticopia e quindi poi se vogliono videoregistrarsi i contenuti e metterli per esempio su YouTube, dove poi troviamo evidentemente tutto, lo fanno. Il limite che si pone in questo momento è il limite che si pone a me, a te, a forse a chi ci ascolta, agli utenti normali che magari non sanno come aggirare le protezioni anticopia, o forse non vogliono neanche aggirare le protezioni anticopia, perché tutti vogliono essere, ma vogliono essere anche in regola. Certo. Io voglio essere in regola, ma non per questo perdere la mia comodità e il mio forse tutto sommato diritto di spostare nel tempo un contenuto. Perché abbiamo una vita tutti molto impegnata, molto frenetica, ma magari la trasmissione che interessa va in onda nel momento sbagliato. Esatto. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Si preoccuperà anche mia mamma, che registra molti film alla TV. Grazie Gianfranco, ci risentiamo tra qualche settimana, perché stiamo preparando, anche voi state preparando, una serie di prove sulle TV. Naturalmente nuove piatte in alta definizione, LCD, plasma, eccetera eccetera, per il Natale, quindi ci sentiamo tra qualche settimana per fare una panoramica. Assolutamente, dare tutti i migliori consigli per scegliere. C'è chi dice, mi ha detto anche recentemente, per acquistare un TV bisogna essere uno scienziato. Ecco, questa è la sensazione che si può provare in negozio. Noi cercheremo di dare quelle 4, 5 o 10 indicazioni per far sì che chiunque possa comprare consapevolmente un TV. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie mille. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24, questa è 2024, in onda ogni settimana tra le 15.30 e le 16.30, oppure su internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Cambiamo argomento, parliamo però ancora di video, una delle, dei settori che si stanno espandendo di più, o comunque uno dei settori più frequentati su internet, è l'evoluzione del video, della TV. Abbiamo parlato in passato di web television, oggi ne vogliamo parlare con una startup italiana, una giovane azienda. Stefano Colonna è fondatore di Glomera, benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo proprio dal nome. Questo è un nome che vi siete inventati assieme al servizio di cui parleremo tra poco, però proprio dal nome vorrei partire, perché alcuni dicono Glomera, alcuni dicono Glomera, gli americani diranno presto Glomera. Come mai nasce questo nome? Quando abbiamo pensato al prodotto che dovevamo fare, abbiamo cercato di immaginarci un nome che avesse due caratteristiche. La prima, avesse un dominio.com libero, per cui che fosse facile trovarci su internet, perché essere trovabili su internet, quindi qualcuno digita un nome su Google, deve essere velocemente trovato, quindi è necessario avere un .com libero. E dall'altra era è l'acronimo di Global Multimedia Era, quindi una parola che per noi aveva un significato che da un lato fosse globale, per cui non limitato semplicemente al concetto, al mercato italiano, e dall'altro fosse una sorta di rivoluzione multimediale, perché dopo tutto il nostro progetto diciamo è inerente al mondo dei video e della web TV, per cui è proprio il passaggio da quello che è il concetto televisivo analogico, diciamo vecchio stile, in quella che è la nuova era della multimedialità, per cui dove il video si fonde all'interno di internet. Quello che tu dici è interessante, cioè trovare un nome che comunque sia disponibile in rete. È sempre stato un problema inventarsi un nome, inventarsi un marchio, bisognava fare un sacco di ricerche, ma adesso le cose sono sempre più complicate, perché mi sembra che i .com disponibili siano veramente pochi oramai. Verissimo, difatti. Dunque, abbiamo detto che voi occupate di web TV. Glomera o Glomera è una web TV, ma è la web TV personale dei vostri clienti, dei vostri utenti, poi spieghiamo come funziona. Questo è un settore molto esplorato, non certo un settore, probabilmente un nuovo settore, però di aziende che si occupano di TV su internet ce ne sono tantissime, è vero o no? In realtà no, non è così vero. Faccio subito una precisazione, Glomera non è una web TV, ma è una piattaforma per creare web TV, per cui il nostro obiettivo è dare a chiunque, e soprattutto poi diciamo a quelli che hanno delle necessità un po' professionali, di potersi velocemente, a basso costo, creare il proprio canale di web TV. E con canale di web TV intendo gestire dei video su internet, per cui fare delle dirette che siano più o meno facili o più o meno professionali, gestire il proprio archivio di contenuti video, renderli interattivi, con lo scopo finale di pubblicarlo all'interno del mio sito aziendale, piuttosto che di un blogger, piuttosto che di una pubblica amministrazione e così via, completamente personalizzato, diciamo, con quella che è la grafica, i colori del mio sito. Per cui l'obiettivo di Glomer è metterti a disposizione una piattaforma che ti faccia gestire tutto quello che è l'aspetto video, tutta quella che è l'interattività con il video che sta andando in onda, e poi te la faccia, diciamo, calare all'interno della tua realtà, quindi all'interno del tuo sito finale. Quindi voi non erogate contenuti. Esatto, noi non produciamo e non eroghiamo contenuti, siamo una piattaforma per gestire i contenuti. Tutto ciò ha un costo? Beh, allora, per voi sicuramente sì, poi parliamo anche della startup, di questa insomma, avventura italiana in un settore dove l'Italia per il momento non ha fatto vedere cose sconvolgenti, insomma tutte le attenzioni sono rivolte a quello che viene inventato e creato nella Silicon Valley negli Stati Uniti, e voi siete un esempio insomma di una realtà che crea una novità nel panorama. Dicevo, ha un costo per gli utenti? Allora, noi abbiamo due diciamo strade che si possono prendere. Da un lato c'è la possibilità per tutti di andare sul nostro sito, che è www.glomera.com, e di attivarsi un canale gratuito. Questo serve a provare la piattaforma, perché chiaramente prima di comprare qualsiasi cosa su internet l'utente deve provarla e vedere che piace, che funziona. Su quel canale diciamo è libero a tutti, si può creare ognuno quello che vuole, e noi andiamo ad inserire della pubblicità, perché in un futuro andremo anche a diciamo generare dei ricavi con la pubblicità e a remunerare chi ha creato dei canali. Dall'altra parte abbiamo invece quella che è la nostra diciamo offerta principale al momento, che è la piattaforma come si dice white label, cioè senza loghi e senza pubblicità, dove chi è un utente professionale, per cui come dicevamo prima, una televisione satellitare, una pubblica amministrazione, un'azienda di prodotto, può prendere questa piattaforma senza avere diciamo scritto Glomera da nessuna parte, senza avere pubblicità, senza avere nulla, e al costo di 199 euro al mese, per cui un costo comunque molto contenuto, ha a disposizione questa piattaforma per crearsi la propria web TV sul proprio sito 24 ore su 24. Senti, dicevo che la vostra è una startup, quando è nata? Allora, è nata come spin-off da un'altra piccola società imprenditoriale nata a Torino, quindi all'interno del mondo tecnologico di Torino, che chiaramente non è la Silicon Valley, ma diciamo vuole essere un po' uno dei punti di riferimento tecnologici italiani. È stata diciamo fondata poi l'anno scorso, e all'interno di quest'anno sono entrati due fondi di Venture Capital per quello che si chiama tecnicamente un investimento seed, cioè sono quegli investimenti che vengono fatti in conto capitale per far sì che le aziende startup possano crescere più velocemente. Questo ci serve chiaramente sia per diciamo, aumentare le nostre ambizioni in Italia, sia soprattutto per incominciare ad andare velocemente all'estero, perché ovviamente con internet si compete a livello globale, per cui diciamo le aziende delle Silicon Valley per noi sono comunque un punto di riferimento a cui... Sì, perché d'altronde tu hai detto questa è una piattaforma, la piattaforma può essere utilizzata ovunque. Che cos'è che ancora fa sì che voi non siate negli Stati Uniti? Tu hai detto noi ancora guardiamo verso la Silicon Valley, però questo è un servizio che viene erogato fondamentalmente per gli utenti italiani, anche se immagino che un utente americano, se vuole, può attivare la propria web TV. Assolutamente, noi abbiamo lanciato la nuova versione della piattaforma poche settimane fa in SMAU durante quell'evento, e abbiamo registrato un notevolissimo successo, quindi creazione di canali di cui circa il 30% è già fatto all'estero, e la piattaforma è già multilingua, per cui in realtà per noi l'Italia in questo momento diciamo è stato il principale mercato, ma più passa il tempo più smette di esserlo come principale mercato. Il motivo per cui noi non siamo nella Silicon Valley è perché stiamo cercando di fare quello che in Italia vogliamo che sia possibile fare, cioè siccome crediamo che a livello di creatività e innovazione e a livello di sviluppo tecnologico anche in Italia si possono fare delle ottime cose, stiamo cercando di diciamo, competere a livello mondiale con quelle che sono diciamo, le risorse che troviamo in Italia, che sono sicuramente inferiori e diverse rispetto a quello che è il mercato americano, però tutto sommato permettono di competere. Senti, torniamo al servizio che voi erogate. Ci spieghi come funziona? Io vado sul vostro sito internet e voglio farmi la televisione. Naturalmente posso fare anche qualche cosa che non sia in diretta. Tu prima hai detto se io voglio addirittura posso fare trasmissioni in diretta. Se io ho dei video immagino io possa fare una cosa con video già preregistrati. Assolutamente, questo mi rifaccio la domanda di prima, dicevi ci sono già tante piattaforme che permettono questo, sì. Da YouTube in giù ce ne sono in effetti tante, però ognuna permette di fare un pezzetto di questa gestione dei contenuti. La piattaforma Glomer è fondamentalmente divisa in tre parti. Vado su www.glomer.com e mi permette di creare e gestire i miei contenuti, per cui se li ho tipo in archivio, nel mio archivio, posso caricarli su questa piattaforma, farli convertire nei vari formati, organizzarli, mettergli magari dati come i famosi tag per trovarli e così via, oppure crearli, fare delle dirette, prossimamente faremo addirittura le dirette da telefonino, è già possibile farle sia da webcam sia a livello professionale e così via. Questa è la prima parte, quindi l'area di creazione e gestione di contenuti. Poi ho l'area di, diciamo, gestione di come voglio che questi contenuti vengano trasmessi, per cui li rendo interattivi. Intorno all'area del video vado a mettere delle interattività più o meno specifiche, dal banale stellette per fare votare il contenuto in onda fino a box che mi permettono magari di creare l'e-commerce, quindi trasformare diciamo quasi la televendita piuttosto al palinsesto, piuttosto che a box di commenti o documenti da scaricare e così via, in modo da che ognuno possa personalizzarsela, chi per l'e-commerce, chi per l'e-learning, chi per il blog e così via. È interessante perché ad esempio sull'e-commerce immagino che ci siano dei prodotti che come del resto succede nella realtà, debbano essere mostrati, illustrati e non basta una fotografia. Esatto, per cui immagina la potenza e la forza di un video dove c'è una persona che ti fa vedere un prodotto e a fianco hai un box interattivo abbinato al video che ti dice clicca qua e compralo. Sì, chiarissimo. Tra poco parleremo anche di commercio elettronico, ci sono alcuni dati e faremo alcune considerazioni sul commercio elettronico italiano, anche con qualche confronto con altri paesi, almeno europei, senza andare sempre a cercare il confronto con gli Stati Uniti. È con noi Stefano Colonna in questa parte di 2024, fondatore di Glomera, una piattaforma per creare la propria web television anche con un'offerta gratuita per gli utenti che vogliono provare a divertirsi a fare la propria TV su internet. Abbiamo detto che il servizio fondamentalmente è diviso in tre. Stefano, ne manca la terza parte. L'ultima parte della piattaforma è quella che ti permette di dire attenzione, hai creato la tua web TV interattiva come vuoi, adesso la devi mettere sul tuo sito. Per cui siccome il tuo sito finale avrà delle caratteristiche di colori, di font, di impaginazione, la piattaforma ti permette di personalizzare come tu vuoi la tua web TV, per cui voglio il video più piccolo, più grosso, di un colore, di un altro, voglio pubblicare il palinsesto, non lo voglio, voglio l'interattività, la voglio di un colore e così via. A quel punto lì prendi un unico codice, lo inserisci all'interno del tuo sito finale e stai iniziando a trasmettere la tua web TV. Tutto questo processo dura pochissimi minuti. Quanti canali ci sono? Ce ne sono già più di 2000 registrati, di cui direi svariate decine, siamo già sopra centinaia di attive tutti i giorni e stiamo proprio vedendo evolvere questa cultura. La cultura della web TV dove all'inizio le persone si registrano al canale, provano a caricare magari un contenuto, a metterlo in loop, cioè sì. Quando finisce ricomincia, poi cominciano a vedere secondo le statistiche in tempo reale che possono vedere sulla piattaforma, vedono che magari la gente li guarda ma dopo un po' si annoia, certo. Allora incominciano a cambiare i contenuti, a fare il sito un po' più interattivo e quindi stiamo proprio vedendo come l'utilizzo della gente, e abbiamo canali che vanno dallo sport alla religione, al turismo, alla cultura locale, di persone che si registrano e incominciano a crearsi la propria televisione, ripeto appunto circa ormai il 30% è estero in lingua straniera ormai, stiamo vedendo che nel tempo tutto questo diciamo sapere che la piattaforma permette con le statistiche lo girano in qualità della web TV, per cui sta migliorando nettamente diciamo tutti i dati che noi riceviamo. Senti, spesso anche a 2024 parliamo dell'evoluzione del video, della TV, così come la conosciamo oggi, come stiamo cominciando a conoscerla con esempi come quelli che tu facevi, nell'era di internet come si trasformerà. Uno dei temi di cui si discute è la TV che si sta trasformando, oggi la si vede sul computer, ma sappiamo benissimo che l'esperienza finale, vera della televisione è quella del salotto. Ecco, tu che cosa pensi dell'evoluzione anche di un servizio come il vostro? Rimarrà legato al computer o ci sarà in qualche modo un sistema per cui poi il tutto verrà trasferito sulla TV di casa? Questa in realtà è la grossa scommessa che tutti quanti stanno cercando di vedere nel futuro. Io sono abbastanza convinto che esisteranno e conviveranno entrambe. Sono due realtà diverse. Se io penso a contenuti, quelli che vengono definiti premium, per cui in alta definizione, molto importanti, dalla finale dei mondiali al film, al cinema, difficilmente un monitor di un PC interattivo mi interessa, per cui preferisco guardarmelo nel salotto, sul divano, con uno schermo quanto più grosso possibile, e l'interattività non mi interessa. Sì, dall'inizio alla fine sto fermo. Esatto. Vero, guardo. Ci sono tutte invece una serie di target, quindi soprattutto i più giovani, e di contenuti soprattutto, di nicchia e meno, diciamo, uguali per tutti in tutto il mondo, che sono invece più tipici di internet e sono più legate all'interattività. Immaginiamo, prima facciamo l'esempio dell'e-commerce, quindi vedo un video e a fianco posso cliccare e comprare quel prodotto. Immaginiamo il fatto di avere una diretta, come può essere banalmente il telegiornale, che tutti sappiamo che alle 8 di sera c'è il telegiornale. Sappiamo che io sto mandando quel programma a quella determinata ora e tutte le persone stanno guardando quel contenuto nello stesso momento, per cui possono interagire sia tra loro sia con il contenuto in onda. Quella è una cosa che molto difficilmente farei seduto in poltrona, perché interagire col telecomando o avere la tastiera sulle ginocchia è poco funzionale. Per cui saranno due mondi che si evolveranno inizialmente senza toccarsi troppo, poi probabilmente ci saranno un po' degli ibridi di contenuti che potranno andare bene da una parte o dall'altra, ma dovranno sempre essere interpretati per uno e interpretati per l'altro. La pubblicità. Tu prima hai accennato alla possibilità di mostrare messaggi pubblicitari e di condividere i ricavi con gli utenti, quello che viene definito dai tecnici, dagli esperti, revenue sharing, la condivisione appunto dei ricavi pubblicitari. Pensi che questa sia una strada per far crescere un servizio come il vostro? Allora, la pubblicità è sicuramente un campo difficilissimo, perché quando, diciamo, una piattaforma inizia a generare una grossa audience e quindi inizia a generare, diciamo, tanti utenti che la guardano in maniera profilata, la difficoltà di fare una raccolta pubblicitaria a livello internazionale e riuscire a, diciamo, declinarla su tutte queste micro nicchie non è assolutamente facile e banale. Per cui attendere, quindi sul medio-lungo periodo, tante, diciamo, tante cose, tante tipologie di web TV saranno orientate, diciamo, la parte premium, quindi quella senza loghi, senza pubblicità. È ovvio che il grosso dell'audience mondiale che guarda internet non è disposto a pagare, per cui la pubblicità è, diciamo, un modo per riuscire a monetizzare questo. Sicuramente anche Glomer, diciamo, sarà molto importante questa, per Glomer sarà molto importante questa, perché poi aiuta chi ha dei contenuti video o vuole comunque cimentarsi a fare web TV a monetizzare il suo sforzo, perché faccio qualche cosa, se ci ottengo anche dei soldi sono più incentivato a farlo. Noi lo viviamo come diciamo percorso sul medio-lungo periodo, dove sicuramente ci interessa e sicuramente ci andremo anche, direi, già nei prossimi mesi, però sapendo, avendo i piedi ben per terra e sapendo che diventerà un modello di business dal medio-lungo periodo. Bene, grazie a Stefano Colonna per essere stato con noi. Sicuramente, oltre che un arrivederci, in bocca al lupo. Grazie, e crepi il lupo. Ultima parte di 2024, parliamo di commercio elettronico. L'osservatorio e-commerce della School of Management del Politecnico di Milano stima che nel 2008 gli acquisti su internet supereranno un giro d'affari di 6 miliardi di euro, con una crescita rispetto al 2007 di oltre il 20%. Questo capita spesso e sempre quando un mercato è giovane, sta capitando ad esempio con la pubblicità online, con gli utenti online, insomma, mercati giovani in forte crescita, quindi non c'è da stupirsi di questi numeri che comunque sono interessanti. Circa 18 milioni di italiani usano oggi il web per ricercare informazioni su prodotti e servizi, quello che viene definito e chiamato infocommerce. Prima mi informo, poi vado comunque nel negozio tradizionale a comprarlo. Ma a fronte di questi 18 milioni che si informano, ci sono circa un terzo, 6 milioni acquistano su internet. Il turismo rappresenta ancora il 56% del settore, cresce del 28%, comunque ci sono altri settori in forte crescita, come ad esempio la moda. Si vendono un sacco di vestiti online. Sicuramente un altro settore molto importante è quello dell'elettronica di consumo. Ne abbiamo parlato di commercio elettronico con Alessandro Cattani, che è amministratore delegato del gruppo Esprinet, che è uno dei più importanti distributori di elettronica di consumo in Europa, opera anche direttamente con il sito Monclick e recentemente, tra l'altro, ha lanciato anche una gamma di prodotti nuova chiamata Nilox. Cattani. Ma è un settore molto frammentato ancora adesso. Quello che stiamo percependo è la riduzione del numero di operatori che stanno entrando nel settore e ipotizziamo l'inizio di un processo di lento consolidamento, questo sul fronte degli operatori. Stiamo vedendo sul fronte delle strategie l'affermarsi di due strategie un po' distinte. L'operatore, diciamo così, portale generalista, il superstore dell'informatica, ed è un po' il posizionamento di Monclick, e dall'altro lato invece l'esistenza di alcuni operatori più verticali e specializzati su alcuni segmenti dell'offerta di elettronica di consumo. Voi avete lanciato recentemente anche un marchio vostro, la Nilox, che produce elettronica di consumo, che offre ai consumatori elettronica di consumo. Mi verrebbe da chiedere come mai create un brand quando sappiamo benissimo quanto è difficile creare un marchio nuovo, affermarsi sul mercato, soprattutto in settori, segmenti dove ci sono nomi internazionali che hanno quote di mercato incredibili, 80%, 90%. Abbiamo misurato l'esistenza di un bisogno di prodotto di qualità a prezzi accessibili. Con i nostri volumi possiamo accedere alle grandi fabbriche di produzione dell'Estremo Oriente garantendo dei processi di controllo qualità di alto livello, e quindi siamo in grado di proporre con packaging attrattivi e prezzi contenuti prodotti di qualità media e medio-alta nel segmento sia dei lettori MP3, MP4, fotocamere, videocamere, questo per il consumatore, diciamo così, più tra virgolette consumer. E poi abbiamo una linea di prodotti per chi vuole costruirsi il computer in casa e in questo caso abbiamo tutta l'accessoristica per la costruzione del PC. E stiamo vedendo che c'è effettivamente una forte domanda, probabilmente anche alimentata da questo ritorno alla frugalità e alla consapevolezza che le crisi finanziarie mondiali stanno riponendo come argomento da controllare. Senta, le faccio un'ultima domanda su quello che si vende di più online. Ma come tipologia di prodotto, telefonia e notebook sono i due prodotti trainanti, però la caratteristica dell'online è quella di una fortissima vendita di prodotti, come dire, di contorno, accessoristica. Perché sugli scaffali della grande distribuzione o dal retailer tradizionale si trova una gamma di prodotto per sua natura limitata, perché lo scaffale per sua natura è lungo una certa quantità di metri e non di più. Invece nei siti online c'è la possibilità di offrire una gamma molto più ampia e profonda, e quindi trainano telefonia e notebook, ma dietro c'è una coda lunga di accessori di ogni genere e natura. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche a chi settimana dopo settimana si aggiunge alla lista degli ascoltatori online, che scarica quindi il podcast della nostra trasmissione. Tutte le informazioni le trovate online sul nostro sito internet, oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.